GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Sotto controllo l'incendio di Bibione che ieri ha minacciato anche Lignano, le verifiche dell'ARPA, inquinanti sotto il livello di guardia, le fiamme hanno sfiorato un campeggio sulla sponda friulana del Tagliamento in cui si sono tuffate 8 persone per scampare alle fiamme. A Bagnoli della Rosandra, presidio permanente e ad oltranza la Varsila contro l'annuncio del trasferimento in Finlandia dell'attività. Il governatore Fedriga chiede all'azienda di ritirare immediatamente il piano di dismissione. Lunedì un incontro tra regione e sindacati. Le autostrade regionali alla società Alto Adriatico, controllata da Friuli Venezia Giulia e Veneto, tariffe bloccate e investimenti per completare la terza corsia. L'inflazione corre, Trieste è la nona città più cara d'Italia, prezzi al consumo in aumento di oltre un punto percentuale in un mese, anche a Udine. Caso Regeni, il processo è bloccato, la Cassazione respinge il ricorso della Procura di Roma contro la decisione di sospendere il procedimento per l'impossibilità di notificare gli atti ai 4007 egiziani accusati della morte di Giulio. Condannato a 16 anni per l'omicidio del suo coinquilino a Trieste, il 28enne Toledo Manzueta, riconosciuto colpevole dell'uccisione lo scorso anno del 35enne Luca Lardieri in un'abitazione del rione di San Giacomo. Nuovi scavi e un museo per riportare alla luce e valorizzare altri 4 fossili di dinosauro. A Duino si muovono le istituzioni. Un'imbarcazione romana del III secolo avanti Cristo ritrovata nella laguna di Grado, la parte visibile è di oltre 12 metri, ma potrebbe essere lunga il doppio, gli esperti. Scoperta eccezionale. Grandi concerti, i classici e il contemporaneo della prosa e del musical, presentata a Udine la nuova stagione del Teatro Nuovo. Un concerto per omaggiare il mistico Franco Battiato. Ai nostri microfoni Simone Cristicchi racconta lo spettacolo che porterà questa sera ad Azzano Decimo. In scaletta canzoni per aiutare la crescita e l'evoluzione spirituale. Sono le 7:20 di sabato 16 luglio, buongiorno da Maria Spezia e Andrea Covre in studio per questa prima edizione del giornale radio regionale. In apertura diamo un'occhiata al tempo, il cielo è sereno, poco nuvoloso sulla regione. Queste le temperature registrate alle 6, a Trieste 23 gradi, vento 27 km all'ora da est, mare mosso con temperatura di 25 gradi, a Pordenone 12 gradi, a Udine 24, a Gorizia 23. A Tolmezzo 20 gradi, Forni di Sopra 14, Sappada 12, Piancavallo 13, Tarvisio 16, Monte Zoncolan 12 gradi, Monte Lussari 10, a Lignano 24 gradi, a Grado 23, temperatura del mare 26 gradi. Le previsioni dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale nelle prossime ore su pianure e costa, cielo in genere sereno, poco nuvoloso e farà caldo. Sui monti cielo in prevalenza poco nuvoloso al mattino, nuvolosità variabile dal pomeriggio con possibili locali rovesci o isolati temporali, specie verso il Cadore, e che in seguito non si escludono anche su qualche zona di pianura. Sul Carso e sulla costa soffierà buona moderata al mattino, brezza nel pomeriggio. Ora le notizie. È stato messo sotto controllo solo nella tarda serata di ieri il grosso incendio divampato nel primo pomeriggio di ieri nella pineta del faro di Bibione, a qualche centinaio di metri di distanza da Lignano Riviera. Evacuata una porzione di spiaggia libera dalla zona del faro e del passo barca di Bibione fino alle prime concessioni demaniali. Nelle prime fasi del rogo le fiamme avevano raggiunto un'altezza notevole, poi si è alzata una colonna di fumo visibile anche da Grado, fumo spinto dal vento verso Lignano Riviera. 8 persone che stavano passeggiando non lontano dalla pineta del faro si sono gettate in mare perché il fumo e le fiamme si stavano avvicinando troppo. Sono state tratte in salvo dalla motovedetta della Guardia Costiera di Lignano. L'incendio ha lambito un campeggio che si trova sulla sponda friulana del Tagliamento senza comunque provocare danni. Sul posto continuano a vigilare diverse squadre dei vigili del fuoco. Sono intervenute anche le squadre di pronto intervento dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per misurare il livello di eventuali sostanze pericolose o inquinanti. I prossimi dati, ha riferito l'assessore regionale all'ambiente Scoccimarro, indicano valori sotto la soglia di attenzione che non creano allarme. Mondo del lavoro con il caso Varsila a Trieste contro l'ipotesi di 450 esuberi annunciata dall'azienda, la protesta dei lavoratori e delle istituzioni è sempre più compatta. All'esterno dello stabilimento di Bagnoli della Rosandra è partito un presidio permanente. La regione è in campo. Lunedì incontro con i sindacati e il presidente Fedriga chiede il ritiro immediato del piano di dismissioni. Poco dopo le 17 il cancello merci di Varsi la chiude come ogni giorno. Stavolta però è diverso. Da lì potrebbe non uscire più niente per 3 mesi, il tempo della procedura avviata dall'azienda, che si concluderà con il trasferimento della produzione di motori da Trieste alla Finlandia e il licenziamento di 450 operai, a cui vanno aggiunti 300-400 addetti dell'indotto. Ora davanti al varco ci sono i gazebo dei lavoratori che resteranno lì sera e notte. Durante i turni di giorno i dipendenti verificheranno che l'azienda non faccia forzature, che per ora sono state escluse. Fabio Canidis, RSU di fabbrica. Abbiamo detto però con fermezza che fin tanto che non ci sarà qualche schiarita, qualche novità ai tavoli ufficiali in cui ci sia anche l'azienda, è chiaro che la posizione non muta di una virgola. Quindi sostanzialmente da qui non esce più niente? Non esce neanche un chiodo. In centinaia hanno dato la disponibilità a partecipare al presidio a rotazione. L'umore è sotto i tacchi, ma la voglia di lottare c'è. Sono creduto in questa fabbrica, sono cresciuto in questa fabbrica e sicuramente non la mollerò qua così dall'oggi al domani. La speranza c'è sempre, però c'è più clima di rassegnazione che altro. E questo colpo proprio non me lo aspettavo. Vediamo se riusciamo ad andare avanti. Intanto lunedì si terrà il primo tavolo con sindacati regione convocato dal presidente Massimiliano Fedriga, che accusa l'azienda, a cui è stata ribadita la richiesta di ritiro della procedura di chiusura. Di fatto Wärtsilä ha mentito alle istituzioni del suo paese, perché il ministro finlandese e l'ambasciata finlandese avevano più volte ribadito l'intento di voler rimanere e crescere in Italia per Wärtsilä, ha mentito alle istituzioni italiane, ha mentito ai lavoratori di Wärtsilä stessa. Pur senza nominarla, Fedriga ha ribadito l'invito a Fincantieri a interrompere ogni rapporto con il fornitore finlandese. Gli stessi vertici del gruppo navale italiano sono rimasti molto irritati dalla decisione, secondo 2 persone che hanno parlato direttamente con l'amministratore delegato. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Il ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini e i presidenti del Friuli Venezia Giulia e del Veneto hanno firmato l'accordo che sancisce il trasferimento alla società Alto Adriatico S.p.A. della gestione di 5 tratte autostradali, tra cui la A4 Venezia Trieste e la A23 Palmanova Udine. La società autostradale Alto Adriatico S.p.A., di cui sono socie il Friuli Venezia Giulia il 67% e per il rimanente 33% il Veneto, gestirà le tratte autostradali dell'A4 Venezia Trieste, la A23 Palmanova Udine, la tratta Porto Gruaro Conegliano, il raccordo Villesse Gorizia e la tangenziale di Mestre per 30 anni. Il ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini e i presidenti del Friuli Venezia Giulia e del Veneto hanno firmato l'accordo che sancisce il trasferimento alla Alto Adriatico S.p.A. della gestione delle 5 tratte autostradali prima elencate. L'accordo è stato predisposto in attuazione della legge in materia di concessioni autostradali, riconoscendo l'interesse strategico del collegamento, per il quale sono previsti 954 milioni di euro necessari al completamento della terza corsia tra San Donà del Piave e Villesse e altri interventi di manutenzione straordinaria e ammodernamento. Sancito anche il blocco delle tariffe. L'accordo, che ha ottenuto la valutazione positiva della Commissione europea, realizza per la prima volta in Europa un partenariato pubblico-pubblico applicato al settore autostradale. Ad un comitato di indirizzo, di cui fanno parte le 2 regioni e i ministeri delle infrastrutture e dell'economia e finanze, il compito della pianificazione delle attività e delle scelte strategiche. Per il presidente Fedriga la firma è la pietra miliare di un processo virtuoso che realizza una cooperazione fra Stato e Regioni, che così intendono individuare ed attuare degli obiettivi comuni, proseguendo nel fondamentale compito di completare la terza corsia. Trieste, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. I prezzi aumentano e l'inflazione continua a salire. Un nuovo aumento si è registrato in un mese a Udine e a Trieste, che è diventata la 9ª città più cara d'Italia. Energia, trasporti e alimentari sono gli ambiti di spesa che più trascinano verso l'alto l'inflazione a Trieste. A giugno l'aumento generale dei prezzi è dell'8,6% anno su anno e dell'1,1% rispetto al mese scorso. Carburanti, gas, elettricità e utenze domestiche costano ormai quasi il 30% in più rispetto a un anno fa e sono quindi più cari anche i trasporti, con un aumento tendenziale del 15,4%. A pesare soprattutto sui bilanci della fascia più debole della popolazione l'inflazione e però anche il rincaro degli alimentari. In 12 mesi il carrello della spesa è diventato più caro del 9% a parità di prodotti acquistati. Crescono anche i prezzi degli articoli per la casa, l'abbigliamento, le spese sanitarie e il divertimento. Ma se Trieste piange, Udine non ride. Qui il dato tendenziale dell'inflazione segna un più 8% e un più 1,1% il dato congiunturale. Anche in questo caso a pesare sono soprattutto l'energia, più 28,8% in un anno, e i trasporti, più 14,3%. E gli alimentari, nel capoluogo friulano, crescono anche più che a Trieste, più 10,3%. Più caro anche lo svago, salgono i prezzi di strutture ricettive e ristorazione. Prendiamo il classico bicchiere di vino in osteria con gli amici. A Trieste, un ottavo, costa in media l'8,5% in più, mentre a Udine il proverbiale Taiut è rincarato solo del 4,3%. Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Il processo in Italia per i 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni nel febbraio del 2016 rischia di arenarsi definitivamente. I giudici della Cassazione hanno infatti dichiarato inammissibile il ricorso della Procura di Roma contro la decisione del giudice per l'udienza preliminare, che l'11 aprile scorso ha deciso la sospensione del procedimento, disponendo nuove ricerche degli imputati a cui notificare gli atti. Ieri in mattinata si era svolto un sit-in davanti alla Suprema Corte, a cui hanno partecipato anche i genitori di Giulio, Claudio e Paola, che ora dicono questa decisione è una ferita di giustizia per tutti gli italiani. Nei mesi scorsi i genitori del ricercatore di Friulano hanno lanciato un appello via social per chiedere una mobilitazione per individuare gli indirizzi dei quattro aguzzini. Lo hanno fatto attraverso un post su Facebook pubblicato in tre lingue, italiano, inglese e arabo, in cui sono state inserite anche le foto di tre imputati. Il processo per l'omicidio del 35enne Luca Lardieri, trovato tra i resti del suo appartamento bruciato a Trieste nel giorno di Pasqua dello scorso anno. L'ex coinquilino 28enne della vittima, Toledo Mansueta, è stato condannato a 16 anni per l'omicidio e per l'incendio dell'abitazione in via del Ponzanino a San Giacomo. Accolta quindi la richiesta del PM Massimo De Bortoli, che aveva coordinato le indagini della squadra mobile. Da questa era emerso che il cittadino domenicano aveva ucciso il 35enne con dei fendenti alla gola per poi dar fuoco all'appartamento per cancellare le prove. I dati della pandemia: ieri erano 2.075 i nuovi contagi di coronavirus in regione, su 8.215 test, con un tasso di positività superiore al 25%. L'incidenza continua a salire e ha raggiunto quota 1.127 nuovi casi settimanali ogni 100.000 abitanti. Sono 3 i decessi per Covid segnalati dalla regione. Continua la crescita dei pazienti positivi ricoverati nei reparti di area medica. Sono 252, dunque 16 in più nelle ultime 24 ore. Invariato a 7 il numero di pazienti nelle terapie intensive Covid. Salgono le vaccinazioni anti-Covid. Ieri altre 2.130 prenotazioni per la somministrazione della quarta dose, alle quali si aggiungono 608 prenotazioni per una delle altre 3 dosi previste, per un totale di 2.737 appuntamenti fissati in una sola giornata. La maggior parte delle prenotazioni riguarda cittadini tra i 70 e i 79 anni, ma non mancano gli ultrasessantenni e gli over 80. Allarme siccità. Il consorzio di bonifica pianura friulana ha reso noto che si sta ulteriormente aggravando il deficit idrico nell'area di riferimento. L'assenza di temporali nel bacino montano del Tagliamento ha reso necessario un progressivo aumento dei rilasci dal serbatoio di A2A. Più grave la situazione della derivazione del torrente Torre a Zompitta, dove viene derivata la portata che alimenta le rogge di Udine. Per quanto riguarda la bassa friulana, la situazione più critica si conferma nell'area occidentale, tra il Tagliamento e la direttrice Castions di strada a San Giorgio di Nogaro. Nella zona della bassa orientale invece si sono registrate, a macchia di leopardo, alcune precipitazioni che hanno temporaneamente alleviato la condizione di stress idrico delle colture. Il consorzio acquedotto Friuli Centrale ha presentato un progetto di potenziamento della dotazione idrica comunale di Sauris, che valuti anche l'utilizzo di sorgenti alternative per sopperire obbedire alle carenze attuali, con inizio dei lavori previsto per la primavera 2023. È l'impegno che Kafka ha preso col Comune della Montagna Friulana dopo le segnalazioni ricevute dall'amministrazione sull'intorbidimento delle forniture di acqua potabile. Il Consiglio Direttivo di Confagricoltura Friuli Venezia Giulia ha confermato all'unanimità la presidenza di Philipp Thurn Valsassina, che rimarrà in carica per i prossimi 3 anni. Le problematicità economiche e sociali sono aumentate in uno scenario di costante instabilità, ha commentato Thurn Valsassina. Le emergenze riguardano la crisi energetica, quella idrica, la mancanza di manodopera specializzata e la difficoltà a reperire prodotti, carburanti e pezzi di ricambio. Per affrontarle, secondo il presidente regionale di Confagricoltura, servirebbero processi decisionali e burocratici più celeri e un contrasto deciso alla speculazione finanziaria che sta mettendo a dura prova i comparti delle materie prime agricole e della carne. Ed ora parliamo della regione, che aumenta di 2 euro dagli attuali 18 a 20 al giorno il contributo per l'abbattimento della retta che viene riconosciuto agli ospiti accolti in residenze per anziani non autosufficienti convenzionate, restando invariata la quota legata al reddito. Alla cifra si aggiungono 12 euro a persona per gli oneri sanitari. L'aumento è contenuto nella delibera approvata dalla Giunta regionale che modifica il sistema di finanziamento delle strutture residenziali. Via libera ai 43 milioni del programma triennale degli interventi che la Regione destina al sistema universitario composto dai 3 atenei del nostro territorio, dunque Udine, Trieste e Sissa, dalle loro sedi decentrate dai conservatori di musica. Le risorse verranno utilizzate sia per interventi edilizi sia per l'arricchimento dell'offerta formativa. Luigi Cimolai riceverà oggi in Senato il premio Imprenditore Italiano di Eccellenza, che sarà consegnato nell'aula di Palazzo Madama dal presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati. Il prestigioso riconoscimento, inserito come 24esimo appuntamento della rassegna Senato e Cultura, è dedicato alle storie di imprenditori che con passione e coraggio hanno incarnato con autenticità i valori dell'italianità, contribuendo al progresso economico e sociale del paese. La premiazione sarà trasmessa in diretta su Rai 1 a partire dalle 11. Il capo della Protezione Civile Nazionale, Fabrizio Curcio, interverrà questa mattina alle 10.30 alla Fiera di Udine all'incontro organizzato dalla Protezione Civile Regionale con i volontari per ringraziarli del loro impegno durante le emergenze affrontate in questi anni, prevista la consegna di riconoscimenti. Ora facciamo un salto nel passato e parliamo del sito paleontologico di Duino, che conserva molti fossili di una specie autoctona di dinosauri. Almeno altri 4 esemplari interi aspettano di essere tirati fuori. Le istituzioni si stanno muovendo per progettare gli scavi e la creazione di un museo. Rocce e Sterpaglia, un sito paleontologico in abbandono che nasconde un tesoro inestimabile. Questo lembo di terra alle porte di Duino è l'unico luogo al mondo che racchiude in pochi chilometri quadrati non solo decine di fossili di una specie autoctona di dinosauri vissuti qui per 200.000 anni, parenti dei famosi Antonio e Bruno. Ce ne sono almeno altri 4 come loro, completi, che aspettano di essere tirati fuori. Ma qui ci sono anche 2 siti archeologici di età romana e la grotta del Diomitra. Infine anche l'aspetto paesaggistico con le bocche del Timavo e la spiaggia del villaggio del pescatore. Il sindaco di Duino Aurisina, Igor Gabrovets. Siti come questi richiamano in altre parti d'Europa e del mondo visite nell'ordine di 500.000 di visitatori all'anno, quindi un fortissimo indotto per un comune che è già ricco di suo ma che potrebbe valorizzare tutta la provincia e tutta la regione. Negli ultimi anni la regione ha stanziato quasi 3 milioni di euro non ancora spesi. Nei giorni scorsi qualcosa si muove tra le istituzioni coinvolte, compresa la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Bisogna acquisire il terreno in mano ad un privato e scrivere il progetto di riqualificazione. Credo che questo museo può funzionare già nella fase di scavo. Non serve tirarli fuori. Un'attrazione, una grande attrazione potrebbe essere già il cantiere di scavo, quindi tante persone che vengono a vedere come si tirano fuori i dinosauri, come si scavano e valorizzano i fossili. Anna Del Bianco, direttrice regionale Cultura e Sport. La regione vuole essere al fianco del comune, collaborare in termini fattivi con l'amministrazione, anche e soprattutto dando, diciamo, delle indicazioni su come procedere per la progettazione di questo luogo. L'auspicio è che si possa lavorare per fasi successive in modo da poter mettere a disposizione del pubblico già nei prossimi anni magari delle porzioni limitate del parco. Villaggio del pescatore, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. I resti di un'imbarcazione romana mai censita prima sono stati rinvenuti dai carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Udine, in corrispondenza dell'isola gradese di Pampagnola. Il relitto si trova a una profondità di circa 5 metri e risulta in maggior parte interrato. La porzione di scafo oggi visibile ha una lunghezza pari a 12,2 metri, ma considerata la conformazione del legno esposto, potrebbe risultare di estensione almeno doppia e larghezza stimata non inferiore a 8 metri. Si notano chiaramente le ordinate della larghezza di circa 15 centimetri e le tavole di fasciame di almeno 6 centimetri. Secondo gli esperti si tratta di una scoperta di eccezionale importanza storica per l'area dell'Alto Adriatico. Alle 7.37 gli spettacoli, il teatro presentata la nuova stagione del Nuovo Giovanni da Udine, che inizierà il 21 ottobre con un concerto evento per festeggiare i 25 anni dell'istituzione. La prosa aprirà invece il 25 ottobre col Mercante di Venezia di Shakespeare. Aprirà ufficialmente il 21 ottobre la nuova stagione del Giovanni da Udine con un grande concerto evento per festeggiare il 25esimo compleanno del teatro. Ospiti d'eccezione l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, il Coro Teatro Reggio di Torino, poi sarà la volta dell'Orchestra del Maggio Fiorentino, l'Orchestra Filarmonica Slovena e altri complessi sinfonici. Nasce nel segno dell'entusiasmo la 26esima stagione. Il presidente della Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine, Giovanni Nistri. Il nostro filo conduttore è anche quello di contribuire a ricreare una normalità di vita quotidiana nella comunità della quale facciamo parte, che non è solo quella udinese, anche quella friulana, per riprendere quelle abitudini nelle quali la cultura aveva una parte rilevante. Questo vuol dire oltretutto continuare su qualità degli spettacoli, su unicità anche degli spettacoli, anche per celebrare i 25 anni che il teatro compirà nell'ottobre prossimo. La prosa aprirà invece il 25 ottobre con il Mercante di Venezia di Shakespeare, diretto da Paolo Valerio, nella nuova messa in scena del Teatro Strabile del Friuli Venezia Giulia. Saranno in totale 27 gli spettacoli, tante le attrici che calcheranno il palcoscenico danno volto, corpo e anima a donne magnetiche, ironiche, fragili, forti, fra queste Lella Costa, Federica Di Martino, Federica Fracassi, Lucia Lavia, Andrea Johansson, Veronica Pivetti, Elisabetta Pozzi, Virginia Raffaele. Tra gli altri attori anche Ferdinando Bruni, Elio De Capitani, Joelle Dix, Remo Girone, Gabriele Lavia. Non mancherà il grande musical con spettacoli cult come Sette Spose per Sette Fratelli, Pretty Woman con la sua colonna sonora dal vivo e, per la rassegna Teatro Insieme dedicata alla famiglia, la prima visione musicale italiana di Piccole Donne. Udine, Giovanni Torbini. Mina, TGR Friuli Venezia Giulia. Nuovo appuntamento per la rassegna Estate di Stelle a Palmanova, che stasera propone il musical Mamma Mia, di cui in sottofondo state ascoltando la canzone omonima. Lo spettacolo, dal debutto a Londra nel 99, ha finora totalizzato una serie incredibile di record a fronte di 60 milioni di spettatori in oltre 440 città. Tra le chiavi del successo, la colonna sonora con le celebri melodie composte dal gruppo svedese degli ABBA, l'allestimento nella città stellata di produzione italiana e focalizzato sulla tecnologia e sulla spettacolarità, conta su regia e adattamento di Massimo Romeo Piparo per la favola musicale in cui trionfano amore e musica. 30 gli artisti sulla scena, accompagnati dal vivo dall'orchestra, per esibirsi in 24 canzoni originali tradotte in italiano. Appuntamento a Palmanova in Piazza Grande alle 21.30. E si intitola Torneremo ancora, concerto mistico per Battiato, il tour del cantautore Simone Cristicchi, che con la musicista toscana Amara e la direzione artistica di Walter Civilotti eseguirà i componimenti di Franco Battiato, in cui la musica si abbina alla tensione spirituale. In scaletta compaiono alcuni dei brani di maggiore ispirazione mistica del cantautore siciliano, mancato lo scorso anno, dalla preghiera universale L'ombra della luce, alla struggente La cura, dai Ti vengo a cercare, fino all'ultimo brano inciso Torneremo ancora, che dà il titolo al concerto. L'appuntamento è ad Azzano Decimo, alla Fiera della Musica, alle 21. Abbiamo intervistato Cristicchi per chiedergli da cosa nasca questa sua iniziativa nel nome di Battiato. Difendimi dalle forze contrarie. Battiato è, è un faro per chi come me ed Amara ricercano nella musica qualcosa di profondo, qualcosa anche di terapeutico, di curativo. Il suo repertorio mistico è qualcosa che davvero entra nel nostro cuore semplicemente ascoltandolo, e posso dire che dalle prime date di questo concerto mistico per Battiato abbiamo anche notato che c'è una grande affluenza di pubblico che vuole ascoltare questo repertorio, vuole creare con noi il concerto, perché è una fusione totale tra gli artisti sul palco e le persone che ascoltano. La figura di Battiato è quella di un artista immortale che ci ha lasciato delle canzoni che resistono al tempo, e questo noi vogliamo celebrare con il dovuto rispetto, con l'enorme stima artistica, ma anche con una connessione, con una comunione di intenti verso chi come lui considera la musica uno strumento sacro che tende a farci evolvere e a farci avvicinare alle sfere più alte. Qual è una delle canzoni a cui lei si sente più legato di questa scaletta così particolare? La scaletta si compone di 24 brani, tra cui anche uno mio, uno di Amara, ma tutto il resto sono appunto di Battiato, e la canzone che forse rappresenta di più il concerto è questa preghiera in musica che si intitola L'ombra della luce, alla quale noi abbiamo voluto aggiungere ed innestare un canto sacro della tradizione cristiana ortodossa, che è il Padre Nostro in lingua aramaica. Perché le gioie del più alle 7.43 passiamo allo sport. L'atletica leggera ai mondiali di Eugene negli Stati Uniti, iniziati ieri, eliminata nella batteria dei 1500 metri donne Sina Tiauvissa, atleta di Pozzecco di Bertiolo, in forza all'atletica Bruniera Friuli Intagli. Al suo esordio in maglia azzurra, la Vissa ha avuto difficoltà a causa di qualche contatto con altre atlete. Ha chiuso al 12° posto in 4 minuti, 7 secondi e 33 centesimi. Poco dopo ha gareggiato il 2 volte campione olimpico Marcel Jacobs, allenato dal goriziano Paolo Camossi. Jacobs si è qualificato per le semifinali, in programma questa notte, ora italiana, con il 10° tempo. Calcio nell'ambito del ritiro austriaco dell'Udinese. Oggi è in programma l'amichevole con l'Union Berlino a Lienz alle 17, ed è stata invece annullata per motivi di ordine pubblico l'altra amichevole che era in programma per domani alle 16.30, Mittersil contro lo Schalke 04. I bianconeri, in sostituzione di questo match, disputeranno un test contro la formazione slovena dell'Illiria Ljubljana. In Serie C entra nel vivo la preparazione pre-campionato della Triestina, che ha ufficializzato l'acquisto dall'Ascoli del terzino sinistro Daniele Sarzi Puttini. Gli alabardati si allenano in questi giorni allo stadio Grezzar e proseguiranno dalla settimana prossima a Ravarscletto, dopo l'amichevole di lusso con la Lazio ad Auronzo, prevista per domani alle 18. Il nuovo allenatore Andrea Bonatti riconosce che la squadra, dopo la svolta societaria, è ancora un cantiere aperto, ma è determinato a dare battaglia. Mister, ci descrive il suo modo di giocare ideale. Quello che fa vincere? No, abbiamo dei principi di riferimento e penso che però sia anche opportuno di volta in volta adattarci a quelle che sono le condizioni degli avversari. A seconda della partita potremmo scegliere di avere un po' più di palleggio, di controllo del gioco o un atteggiamento più aggressivo. In altre condizioni sarà opportuno non vergognarsi di fare un blocco medio difensivo, andare di transizione. L'obiettivo della fine del campionato che lei si pone invece qual è? Siamo un cantiere aperto per motivi di tempistiche, è entrata una nuova proprietà che molto velocemente ha ristabilito una situazione che poteva essere molto complicata per la Triestina Calcio. Abbiamo una rosa che è in costante evoluzione. Questi sono fattori che determinano una difficoltà nel pianificare un obiettivo concreto. Posso garantire che vogliamo essere competitivi, è un termine però che nei fatti non è quantificabile come posizione di classifica. Andrea Vardaniga, TGR Friuli Venezia Giulia. Il Pordenone ha ufficializzato il ritorno del centrocampista Salvatore Burrai, il calciatore classe 87, arriva dal Perugia a titolo definitivo, era già stato nero-verde per 4 stagioni dal 2016 al 2020. Basket, il Consiglio federale ha approvato la composizione dei gironi della prossima Serie A2, Udine e Cividale sono state inserite nel girone rosso assieme a Fortitudo Bologna, Cento, Chieti, Chiusi, Ferrara, Forlì, Mantova, Nardò, Pistoia, Ravenna, Rimini e San Severo. Il campionato inizierà domenica 2 ottobre. Alle 7.47 apriamo la nostra rassegna stampa partendo dal Piccolo di Trieste che con una grande foto in prima pagina riassume la situazione dei lavoratori della Varzila. Si vedono tre operai impegnati a spostare del materiale e sotto di loro il titolo Uniti nella lotta. Ieri la protesta ai cancelli, lunedì il primo tavolo in regione. E poi il presidio ad oltranza e l'ultimatum di Fedriga. Il piano di dismissione va ritirato per i partner italiani. Inaccettabile un rapporto con chi mente. Tante le testimonianze raccolte dal Piccolo che racconta anche delle lacrime dell'ex presidente Razzetto che dice unità efficiente, tagli inspiegabili. Sul Piccolo anche il caso Regeni, respinto il ricorso, la Cassazione no al processo agli 007 e ad aprire le cronache di Trieste è l'università. Ateneo, iscrizioni aperte, no tax area più ampia e tre nuovi corsi di laurea. Il titolo, investiti 100.000 euro per alzare il tetto delle esenzioni ed estenderne la platea. Ambiente marino, geofisica e scienze della formazione primaria, le tre novità. L'apertura del Messaggero Veneto si occupa dell'assestamento della manovra di bilancio regionale con il contributo per le rette dei non autosufficienti di 2 euro al giorno. Fotonotizia per l'incendio di Bibione e poi spazio all'aumento dei contagi da coronavirus e al passaggio della gestione delle autostrade alla società Alto Adriatico. Capocronaca di Udine, le lunghe attese per l'esame della patente davanti alla commissione medica a causa dei ritardi accumulati dalla pandemia. Sulla vicenda dei maltrattamenti nella RSA d'Aiello, l'interrogatorio di garanzia di oggi a 2 dei 4 operatori, ora i domiciliari, 7 dipendenti già colpiti da misure cautelari, ma sono 13 dipendenti coinvolti, di cui 10 OS e 3 infermieri. Ancora da completare la notifica dei provvedimenti cautelari da parte della polizia. Il Gazzettino apre sul tavolo organizzato in regione per la somministrazione della quarta dose che nelle farmacie necessita circa 20 giorni per diventare operativa. Spazio poi al crollo del 30% del mercato delle auto in regione a causa della scarsità di materie prime e del previsto passaggio all'elettrico. L'edizione di Udine del Gazzettino si occupa poi della decina di presidi scolastici in Friuli in trasferimento o in pensionamento, come anche delle ordinanze di Lignano che limitano la movida notturna nel weekend in seguito agli episodi di risse e aggressioni. L'edizione di Gorizia e Monfalcone del Piccolo si apre con la foto di un sub che mostra un frammento di un'antica anfora e il titolo Una grande nave romana nella laguna di Grado, riferimento all'eccezionale scoperta archeologica sottomarina di cui vi abbiamo riferito. Spazio anche alla politica goriziana nella prima pagina del Piccolo. In 4 danno l'addio al neo eletto consiglio, lascia Martina e si dimettono 3 assessori. C'è il richiamo all'incendio di Bibione, le cui colonne di fumo si sono viste anche a Grado. A fuoco la pineta di Bibione, fumo e cenere su Lignano. In 8 fuggono tuffandosi, è il titolo dell'articolo. E poi ad aprire le cronache di Monfalcone sono i lavori pubblici. A Marina Giulia, nuova scalinata e più sabbia, previste 2 terrazze in erba, nuove aiuole e riqualificazione del parco giochi e degli argini per 634.000 euro. Il capocronaca dell'edizione di Pordenone del Messaggero Veneto si occupa di Giuseppe Amadio, presidente del consorzio universitario, che ha annunciato di non voler ricandidarsi dopo l'approvazione del bilancio prevista in settembre, in cui sarà previsto un ammanco di 30.000 euro a causa del caro energia. Per la giudiziaria, la ricostruzione del femminicidio di Aurelia Laurenti a Roveredo nel 2020, fatta dai giudici della Corte d'Assise, che hanno individuato in un approccio sessuale respinto la causa del delitto. Da San Vito la delibera del Comune per l'impugnazione dell'autorizzazione regionale ad ampliamento di Cronospan di realizzazione di una linea produttiva di pannelli truciolari da legno riciclato. L'edizione di Pordenone del Gazzettino pubblica un reportage sulla piazzola del soccorso dell'ospedale. Costata quasi 2 milioni, ora rischia l'abbattimento perché non utilizzata a causa di problemi tecnici. L'elisoccorso infatti atterra ora alla Comina. Spazio poi alle 2 settimane di autonomia per l'irrigazione delle aziende agricole di Sacile. Alle 7.51 gli appuntamenti. Quali sono le possibilità delle terre alte del Friuli Venezia Giulia di attirare nuovi abitanti? Rispondere a questo interrogativo è l'obiettivo del ciclo Terre Alte tra confini e frontiere che propone passeggiate alla ricerca di storie personali e di comunità in luoghi che conservano memorie passate e in cui nascono nuove iniziative. Il primo appuntamento oggi alle 14.30 a Pontebba. La seconda edizione della rassegna Vicino Lontano Monte propone un convegno organizzato dall'ANPI sulla questione montana nella resistenza italiana, a cui interverrà Andrea Zannini, docente di storia moderna dell'Università di Udine. Appuntamento a Paluzza, al Cinema Daniel, alle 9.30. Nel pomeriggio prevista la conferenza spettacolo L'altro Pasolini, Pierpaolo, Porzusa e i Turchi, con protagonista l'attore e regista teatrale Massimo Somaglino, ha rigolato al rifugio Chiampizzulon alle 16. La musica di Beethoven e l'interpretazione di Fabrizio Bentivoglio sono i protagonisti del primo appuntamento della rassegna Il Rossetti a Miramare, in Una notte così, che vedrà protagonisti l'orchestra di Padova e del Veneto, diretta dal maestro Marco Angius, e il soprano Valentina Corò, con Fabrizio Bentivoglio impegnato nella parte recitata. Lo spettacolo prevede l'interpretazione dell'Egmont, tragedia goetiana per cui Beethoven aveva creato le musiche di scena, a Trieste, nel piazzale del Castello di Miramare, alle 21.30. Segnaliamo ora altri appuntamenti culturali odierni. Per Trieste Loves Jazz stasera, concerto del chitarrista e compositore statunitense John Scofield con il suo quartetto Yankee Go Home, alle 21 al Castello di San Giusto, con ingresso libero. Il cantautore bretone Alan Stivell riceverà il sigillo della città dal sindaco di Udine Pietro Fontanini nella sala giunta del municipio alle 10.15. Alle 21.15 il concerto dell'artista sul piazzale del Castello. Proporrà un viaggio nel 300, la rievocazione organizzata a Trieste al Castello di San Giusto, 5 le visite guidate in programma dalle 10.30 alle 17.30. Quarta edizione della pedalata turistica leggendaria di Gnot, a Buia, la piscina di Spazio Sport alle 20, il percorso nella zona collinare per 43 km, adatti a tutti. La Crazy Color Race, passeggiata colorata di beneficenza, debutta sulle rive del lago di Cavazzo. Il ricavato andrà in beneficenza alla ricerca contro la SLA. Il ritrovo alle 8.30 al parcheggio area ex discoteca Rilago. Piccoli palchi, rassegna teatrale per le famiglie, torna a Muggia in Calle dei Pancera alle 18 con Topo Federico Racconta, spettacolo di narrazione per i bambini dai 4 anni d'età. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda alle 11.30 con la seconda puntata di Parapunzi, rivista radiofonica in dialetto triestino realizzata nel 1992. A mezzogiorno l'appuntamento con Bon Bon, un programma di e con Riccardo Cicconetti e Marco Fornasin. Alle 7.54 si chiude questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, redatta e condotta in studio da Maria Spezia e Andrea Covre. È andata in onda grazie alla collaborazione tecnica di Tommaso Vinoni e Maurizio Mona. In redazione ha collaborato Edoardo Veglia. Prossimo appuntamento con informazione radiofonica regionale alle 12.30. Grazie per essere stati con noi. Buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.